Questo programma è presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music e con la gentile sponsorizzazione di Librerie Coop. Chi legge ha un punto in più. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Io sono Maria Grazia Vignoli e oggi mi ritrovo qui presso gli studi del Florian Cine TV per presentarvi una puntata speciale, o meglio, un vero e proprio omaggio alle sonorità tipiche degli anni 60. Gli anni 60 sono stati molto importanti per la storia della musica globale. Sono questi gli anni dei suoni del soul con Stevie Wonder, James Brown e Rita Franklin, solo per citarne alcuni. Ma questi sono anche gli anni della musica di protesta, di giovani musicisti che rispondono al cambiamento politico con la chitarra in mano. E Blowing in the Wind di Bob Dylan ne è l'esempio perfetto. Negli anni 60 è rinato anche il rock blues grazie ai Rolling Stones, ma soprattutto è esploso il fenomeno della Beatlesmania. I Beatles, infatti, sono stati il gruppo più amato in questi anni, un uragano pop rock così di impatto che la loro creatività continua a ispirare i musicisti, anche ai giorni nostri. L'ospite di oggi, infatti, ha fondato alla fine degli anni 90 un gruppo beat che si inserisce nel filone revival, inaugurato a Bologna dagli Avvoltoi e proseguito dagli Sciacalli. È qui con noi a The Show Must Go On, Matteo Cincopan, per omaggiare i Poets. Ciao Matteo, benvenuto! Ciao a tutti voi di Radio Fujiko e Florian Cine TV. Sono molto felice di averti qui e parto subito in quarta chiedendoti di raccontarci in breve la tua passione per gli anni 60. Beh, è una passione iniziata in realtà da piccolo con la scoperta casuale di un 45 giri dei Beatles in cantina. E sul lato A c'era Michelle e sul lato B Run for Your Life. E vabbè, non scendo troppo nel dettaglio, comunque è partito tutto da lì ed eccomi qui oggi. Davvero dei bei tempi quelli per la musica. Comunque oggi siamo qui per parlare dei Poets, ed in particolare di Groovy, il vostro LP che l'anno scorso ha compiuto 20 anni dalla sua prima uscita. Quanto è stato importante per te Groovy e come lo descriveresti ai radioascoltatori di Radio Città Fujiko? Groovy è un album a cui non solo io, ma anche gli altri membri del gruppo rimaniamo molto legati, un po' perché l'abbiamo registrato in una situazione, bella, direi non mi vengono altre parole, perché l'abbiamo registrato in una casa in montagna, stando chiusi dentro in uno stanzone con strumenti eletti nello stesso posto e ne siamo usciti con le canzoni. Per cui, insomma, ho dei bei ricordi a livello umano, legati a quest'album. E ci siamo legati anche perché è grazie a quest'album che abbiamo avuto il nostro primo contatto con una casa discografica, per cui è il disco che ci ha fatto switchare da gruppo di amici che suonano in cantina a una cosa più seria. Il primo brano che ci canterai, infatti, è proprio tratto da Groovy e si intitola Everyday. Sì, Everyday è una canzone che avevamo già individuato all'epoca come potenziale singolo perché facevamo tutto in autonomia, però guardavamo avanti, insomma ci tiravamo un gran viaggio, bisogna, diciamola così. E è una canzone che rientra proprio in quell'approccio anni 60 che i Poets hanno mantenuto per tutti gli anni della loro attività. A livello di testo non c'è molto da dire, è una canzone d'amore tardo-adolescenziale, se mi passi l'espressione. E musicalmente si rifà proprio a quelle sonorità da Swing in London e a cui abbiamo cercato di aggiungere un tocco, volendo più mediterraneo. In realtà non so fino a che punto la cosa ci è riuscita perché è stato intenzionale solo in parte. Volevamo comunque che avesse un marchio che non fosse un pedissequo ricalcare sonorità vecchie, ma volevamo anche dire qualcosa di nostro. E questa è la canzone. E allora ascoltiamola qui tutti insieme con Everyday, Matteo Cincopan, che omaggia i Poets. You're saying that we're going to my problems are gone, but I know that it's an illusion. So when this dream will be over and the whole of my hopes will be dead, I will remember to myself and now it keeps on happening to me that every day I find myself talking to your features in my home. You can save my soul. Abbiamo appena ascoltato il brano Everyday. Adesso, Matteo, ti chiedo di presentarci When You Were By My Side, brano che racconta la malinconia e la nostalgia per una persona cara. Chi si occupava nella band di scrivere i testi delle canzoni e quanto era importante il fattore autobiografico? Allora, questa domanda è... è una domanda che può mettere in difficoltà perché, vabbè, allora, comincio, hai presente nelle interrogazioni a scuola quando ti fanno una domanda e tu dici, sì, allora, nei Poets tutti e tre scrivevamo le nostre canzoni e ognuno cantava le sue. E oggi ci sono io a fare il tributo ai Poets e ho portato canzoni mie. Però in realtà anche Lorenzo Mingardi, il bassista, e Matteo Ferretti, il batterista, hanno avuto la loro parte. Per quanto riguarda la stesura dei testi, quindi parlo per me, e io devo dire che come paroliere ho progredito più tardi. All'epoca dei Poets, tralasciando il fatto che mi sarebbe piaciuto scrivere le canzoni in italiano da subito, poi non ci trovavamo d'accordo tra noi tre sugli argomenti, sul modo in cui scrivere, per cui abbiamo optato per l'inglese. A quel punto ho iniziato a vedere i testi come semplicemente dello spazio da riempire con delle sillabe, per cui non è che ci sia molto da ragionare dietro le canzoni dei Poets, sono di quei ritornelli sempre rifacendosi alla musica anni 60 in cui cuore fa inevitabilmente rima con fiore, amore, motore, contatore, malore in certi casi. Le storie che raccontano le nostre canzoni sono sempre storie di fantasia, c'è quasi niente di autobiografico. Poi è chiaro che eravamo tre sfigati con le ragazze, per cui qualcosa viene fuori anche se non vuoi. Ma non siete degli sfigati. Ma lo eravamo. Allora ti lascio il beneficio del dubbio e ascoltiamo adesso When You Were By My Side. To Il prossimo brano è Marianne e appartiene all'EP When You Were By My Side. E poco fa mi hai confidato che questo pezzo si ispira a un altro pezzo degli Who, Marianne with the Shaky Hands. Gli Who sono stati un altro gruppo storico rock che ha travolto gli anni 60 fin dal loro primo disco d'esordio, ovvero My Generation. Anche gli Who hanno quindi segnato la tua carriera artistica? Sì, io non sono uno che spacca le chitarre come Pete Townshend, anzi con quello che costano me le tengo care. Però gli Who, al di là dell'impatto energico e fisico anche che hanno avuto negli anni 60, in realtà hanno un gran gusto per la melodia. Se uno li va ad ascoltare sono dei genietti pop. E per quanto mi riguarda, nelle canzoni che scrivo io c'è anche il loro contributo. Per quanto riguarda Marianne, il contributo degli Who si limita al nome. Mi ricordo che la situazione era che dovevamo registrare When You Were By My Side e avevamo bisogno di 4 canzoni inedite. Ne avevamo 3 e mi sono messo lì con l'idea di scrivere qualcosa in fretta e furia. E avevo sentito nel pomeriggio di quel giorno The Who Sell Out, dove c'è appunto Marianne with the Shaky Hands. Mi era rimasta in testa questo ritornello, Marianne with the Shaky Hands, e ho pensato semplicemente di partire da lì. Il nome era carino, era musicale, suonava bene, era spensierato, e ho sviluppato quella che poi è diventata la nostra Marianne. E meno male che c'è stata questa ispirazione. E ascoltiamo adesso qui su Radio Città Fujiko Marianne. Dopo aver ascoltato Marianne, ritorniamo qui su Radio Città Fujiko e continuiamo a fare due chiacchiere con Matteo Cincopan. Perché Matteo ha anche una carriera da solista e anche qui si nota molto l'influenza della musica beat. Nell'album Un'altra stagione si trova il brano numero 90. Proprio il brano che ci stai per cantare adesso, ma prima di cantarlo ti va di parlarci un po' di questo pezzo? Allora, numero 90 è una canzone che è nata da una... Ecco, qua c'è non dell'autobiografico, ma del biografico. È nata da una discussione con un mio amico che era appena stato mollato da una ragazza. Adesso non faccio nomi, non scendo nei dettagli, non dico niente. Abbiamo un po' parlato, sai come si fa tra amici. e a furia di parlarne a un certo punto ha iniziato a prendere forma nella mia testa l'idea di questa canzone, che è detto tra noi in confidenza, è ambientata in un manicomio. E ho pensato a questo rapporto morboso di un medico che si innamorava di una paziente. E in realtà non ci sono elementi espliciti che rimandano a questo nel testo. L'unico collegamento è nel titolo, numero 90, che onestamente non so neanche quanto sia diffuso, perché forse è solo una cosa che diceva mia nonna da piccola con i suoi amici, perché in via Sant'Isaia 90 una volta c'era il manicomio a Bologna e una volta mi ricordo che mi ha raccontato e mi è rimasto impresso che tra lei e i suoi amici, quando dicevano che uno era uno da 90, vuol dire che era fuori di testa. Mi dispiace per il tuo amico, un po' meno per il manicomio che ha in testa, perché ne è uscito davvero un bel pezzo. E adesso lo ascolteremo qui tutti insieme su Radio Città Fujiko, A The Show Must Go On, Matteo Cincopan con numero 90. Se io ti vestissi di parole, tu le porteresti poi da sole. Abbiamo appena ascoltato numero 90 di Matteo Cincopan, contenuto nell'album Un'altra stagione. Sempre in questo album si trova I nomi che non so, un brano molto introspettivo, in cui tu, Matteo, accetti in maniera lucida proprio il fatto che nella vita non si può avere una risposta ai mille dubbi che spesso e quotidianamente ci bussano alla porta. Quindi ti chiedo se ritieni la componente autobiografica fondamentale nella scrittura dei tuoi brani da solista. Devo dire che non è facile rispondere, nel senso che comunque sì, c'è dell'autobiografico, però anche qui l'idea è venuta dall'esterno. Stavo leggendo L'insostenibile leggerezza dell'essere e onestamente sono passati degli anni, non mi ricordo bene il romanzo, anzi forse dovrei rileggerlo, però mi ricordo che feci questa riflessione mentre lo leggevo, per cui noi creiamo la realtà intorno a noi fondamentalmente nominandola. E nel momento in cui io non so dare un nome a una cosa, a una persona, a un oggetto, questa cosa scompare dal mio universo, dall'universo delle mie possibilità. E adesso non voglio fare la conferenza, anche perché magari gli ascoltatori si annoiano. Però ho buttato giù questa canzone con questa riflessione, in cui noi possediamo quello che siamo in grado di nominare, fondamentalmente. Musicalmente vorrei farti notare che la strofa è in 7/4, che per un pezzo pop è una cosa abbastanza inusuale. Già, 7/4 è abbastanza inusuale per un pezzo pop. Di solito sentiamo i 4/4, poi 2/4 se non spingono al punk. Ho voluto lanciarmi e raccogliere una sfida e vedere se potevo riuscirci. E spero che, non sta a me dire se il risultato è riuscito oppure no, spero che lo sia. Vorrei ringraziare Stefano Vaccari e Gaia Cesari che sono venuti a suonare insieme a me, rispettivamente basso e batteria. No, batteria e basso. Li ringraziamo anche noi e allora ascoltiamo i nomi che non so. Muovo la testa sull'orlo di un'idea che non ho ancora immaginato. Il mio cervello è scappato già di là, io sono rimasto bloccato. Il tempo scava percorsi nella via, fumi a più dimensioni. Del sole di ieri già sento nostalgia, i giorni son già più corti. E non ci sono parole che separano, le differenze si annullano nei nomi che non so. In un tramonto sognato, chi lo sa, che forse ho visto le cose che fanno una città, evaporavano al sole. Matteo, grazie per essere stato qui con noi a The Show Must Go On e per averci riportato con questa puntata maggio nelle sonorità tipiche degli anni 60. Grazie a voi, è stato un piacere. Un saluto a Radio Fujiko, a Florian Cine TV e a tutti quelli che mi hanno ascoltato e che hanno seguito i Poets negli anni. E ciao! Un saluto anche ai radioascoltatori e ci risentiamo giovedì prossimo, sempre alle ore 16:30. Qui su Radio Città Fujiko con The Show Must Go On. Nuovi artisti, nuove storie, nuove emozioni. Questo programma è stato presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music e con la gentile sponsorizzazione di Libreria Coop. Chi legge ha un punto in più.